Innanzitutto i numeri. Ci sono 2.000 nuovi contagiati in più che portano il totale sopra i 77.000. Si contano altri 830 morti. Ma nonostante questo, i segnali che le cose si stanno assestando ci sono. Le misure di distanziamento sociale e di blocco sembrano funzionare e c'è chi azzarda. Siamo vicini al picco. Novità di giornata: si può fare una passeggiata intorno a casa con i bambini. Si può corricchiare. Mentre l'attenzione resta rivolta al mondo dell'economia, con Confindustria che prevede un calo del PIL intorno al 6%. Lavoratori, dipendenti, autonomi, imprenditori aspettano il varo definitivo delle misure del governo, ma soprattutto un'idea di quando si potrà ripartire e come, con quali settori, in quali territori. Già, quando? La discussione si è aperta, mentre gli altri paesi si confrontano con situazioni via via più complicate. La Spagna, su tutti, che conta un numero di contagiati simile a quello dell'Italia e ieri ha registrato lo stesso numero di vittime. E gli Stati Uniti, che contano ormai oltre 160.000 casi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci di nuovo alle 6:30 minuti di questo mercoledì 1 aprile, care ascoltatrici e cari ascoltatori, con questa canzone di Bob Marley che abbiamo scelto come nostro inno quotidiano in questo periodo. Che ascoltiamo adesso alle 6:30 e poi quando andiamo a chiudere prima del GR. Ed è un modo per farci coraggio, Sentire Bob Marley che con i suoi ritmi ci dice che andrà tutto bene. Oh, certo, lo sappiamo che le cose non vanno ancora bene, vanno un pochino meglio. Però ci si fa coraggio anche così. Allora, Peter Bescapè in regia, Anita Panizza in assistenza, Giorgio De Luca in redazione, in assistenza anche lui. E voi al 349-238-6666 per gli sms, messaggi WhatsApp, anche audio, e anzi soprattutto audio, le vostre voci, fatemele sentire. Un saluto particolare al primo ascoltatore che ci ha scritto. È un commercialista, dalle 4 del mattino è sveglio per inviare la domanda di indennità, le domande di indennità da 600 euro per gli autonomi. E è riuscito a farne solo una. E lo sapete perché? Il sito è intasato. Bentornati in Italia, Di cosa si discute in queste ore? Riaprire? Quando? Come? In che maniera? A scaglioni? Per filiere, come ci ha detto ieri il ministro Patuanelli? Oppure per regioni? Per zone? Conservare delle zone rosse? Perché poi alla ripartenza bisognerà pensare, Di cosa si discute? Del consueto delirio italiano? Ma posso avere io una circolare del Viminale che nella serata di ieri mi dice che finalmente posso fare due passi con i bambini? Nella quale è scritta male e quindi non si capisce se posso andare a correre oppure no, e quindi poi deve arrivare una precisazione da fonti del Viminale e poi parlare il ministro Lamorgese in TV perché ci si capisca qualcosa. Tra l'altro si innescherà un mercato di bambini in prestito per consentire alle persone di uscire da casa. Ieri con mia moglie ci pensavamo. Io ho 3 figli e un cane, se volete. Quindi, abbondanza. La questione degli autonomi, beh, l'abbiamo accennato, poi ci torneremo. 800 euro al volo e 600 euro al mese poi. Ma basta, beh, è chiaro che no, E poi tutta la discussione economica. Olanda, Germania, i cattivi paesi del nord che non vogliono gli eurobond. Le vostre voci anche su questo, se volete. Intanto la voce del direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, il quale ci dice: siamo vicini al picco, siamo al picco, siamo al plateau. Sentiamo queste due voci così capiamo cosa intende. In qualche modo ci troviamo in una situazione in cui sembra che stiamo arrivando, come ci stiamo dicendo da qualche giorno, a una specie di plateau. Dobbiamo confermarlo, però certo questo è un dato che ci dice che le misure stanno funzionando. Arrivare al plateau non vuol dire aver conquistato la vetta e adesso è finita, vuol dire che dobbiamo cominciare la discesa. E la discesa si inizia, può iniziare se continuiamo a porre la grandissima, massima attenzione a quello che facciamo quotidianamente. Così dunque, Brusaferro, segnali positivi che vengono registrati anche dalla Regione Lombardia, l'assessore Gallera. Non dobbiamo in alcun modo abbassare la guardia e dobbiamo continuare con grande fermezza la nostra battaglia. Ma la nostra battaglia sta dando qualche risultato, ogni giorno un risultato positivo in più. E poi Walter Ricciardi, il consulente del ministro Speranza per l'emergenza coronavirus, che si sofferma anche su, tra le altre cose, poi sentiremo qualche altra voce di Ricciardi, però si sofferma anche sulla situazione di Bergamo. Sono ancora difficili, però anche loro stanno vedendo una luce in fondo al tunnel, nel senso che sicuramente c'è stato un decremento degli arrivi, il che li consente naturalmente di lavorare meglio, di non lavorare sotto pressione. Naturalmente quelle zone caldissime sono ancora calde, però questo trend è un trend sicuramente positivo anche per le zone più affollate. Certo, se è così dal punto di vista dei numeri, a chi è immerso in quella realtà, a chi è immerso nella realtà di Bergamo e di Brescia anche in queste ore, beh, questa luce in fondo al tunnel oggettivamente fatica a vederla. Ed è proprio là che andiamo adesso, mettendo insieme due elementi. Innanzitutto l'attenzione che vogliamo rivolgere, tra l'altro tanti di voi che fanno i camionisti, che fanno gli autotrasportatori, ci hanno scritto in questi giorni raccontandoci anche le loro esperienze. Sono persone alle quali rendiamo omaggio perché sono un pezzo del mondo che sta tenendo in piedi questo paese. Sono le persone che portano da mangiare nei supermercati, che trasportano gli oggetti che poi arrivano nelle nostre case in questo periodo di clausura forzata. E vivono una situazione non facile anche loro, perché ci raccontano quando arriviamo a scaricare ci trattano come degli appestati, perché siamo della gente che gira, no? E quindi nemmeno ci fanno usare il bagno in certi casi. E dunque un abbraccio a loro che stanno lavorando intensamente e un abbraccio ai bergamaschi, e lo mettiamo insieme con Patrizio Ricci, che è presidente della CNA FITA, il settore dell'autotrasporto, una delle sigle che rappresenta il settore dell'autotrasporto ed è di Bergamo. Patrizio Ricci, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, come vanno le cose da voi? Innanzitutto, dico dal punto di vista territoriale, come sta lei? Come vanno le cose? Dobbiamo considerare che evidentemente ci siamo resi conto di quello che stava succedendo in questo territorio quando abbiamo visto l'esercito portare via quelle barche, e da lì me ne sono accorto. Cioè, io sono chiuso in casa da 3 settimane, nonostante che facendo l'autotrasporto nel settore degli alimentari facciamo raccolta latte, distribuiamo presso i centri commerciali, distribuiamo presso e distribuendo, no, nella catena, continuiamo a lavorare e lavoriamo in una certa maniera, però è evidente che non eravamo preparati a una situazione di questo tipo e comunque l'abbiamo affrontata in una maniera che, e qui devo ringraziare tutti, devo ringraziare i ragazzi che stanno comunque lavorando in condizioni di un certo tipo, no? Io lo considero, no, in silenzio, senza clamori, però abbiamo continuato a mantenere viva, no, un settore, e continuando a fare queste consegne e perciò non abbandonando poi quelle che sono le persone che sono a casa, che siamo chiusi. Io torno a ripetere, sono 3 settimane, noi siamo stati colpiti tutti, io anch'io, nessuno di noi ha fatto il tampone, ma è evidente che febbre e difficoltà nella respirazione che abbiamo avuto vanno in quella direzione di questo virus che vabbè, siete tra i tanti non contati tra i contagiati, sì, no? Ricci, sì, che in realtà contagiati presumibilmente lo sono. Facciamo parte del numero, cioè non siamo una statistica, ma evidentemente, cioè, in questo territorio la diffusione di questo virus è stata molto alta, molto alta. Senta, come la stanno vivendo i vostri associati? Insomma, noi qualcosa abbiamo raccolto nei giorni scorsi, qualcosa lo ha sentito, lo accennavo, è chiaramente una fase complicata, cioè teoricamente è un settore che continua a funzionare, continua ad andare, quello della logistica, poi però la realtà è che nei fatti l'attività da una parte è ridotta e dall'altra parte è un'attività sempre più complicata. Sì, complicata dal fatto che appunto, no, in qualche posto siamo visti come degli untori, come portatori di virus, come, cioè, e questo dà un po', no, il senso di frustrazione che viene a colpire chi comunque ha garantito e continua a garantire, no, un certo tipo di servizio. Dall'altra parte anche come governo, ma questo è evidente, no, le risposte purtroppo sono lente, nel senso che poi arrivano, però arrivano, ci vorrebbe più decisione, ci vorrebbe più, in un momento di emergenza le decisioni devono essere dettate con emergenza, perciò, che ne so, stiamo ancora aspettando la 561, cioè poter lavorare quelle 2-3-4 ore in più, no? Perché magari allo scarico perdi tempo, perché appunto qualcuno non ti fa scendere dal veicolo, di conseguenza alcune situazioni si allungano. Stiamo aspettando alcune cose, tipo chi comunque continua ad andare all'estero non può fare la revisione dei veicoli, non può fare la CQC perché siamo tutti fermi, però è evidente che se viene fermato si ritrova in situazioni particolari, no? E perciò qui servirebbe, non dico uno scatto, però alcune risposte, ma date con una certa velocità. Molto rapidamente, che è il tema che vediamo un po' circolare dappertutto. E poi tra l'altro oggi ne parleremo alle 8:30 con Maria Latella, avremo ospite il presidente dell'ABI, Patuelli. C'è un tema che ha a che fare anche con la liquidità, che immagino riguardi anche le vostre imprese, Ricci. È un tema di liquidità in questo momento che è difficile da reperire, i rapporti con le banche stanno diventando un po' più tesi, no? Sì, vero. Dall'altra parte però, ve lo permetta, c'è qualcuno che sta un po' sfruttando questa situazione e chiede diluizione di pagamenti quando questo magari sono a 60 giorni e di conseguenza momenti in cui il coronavirus non c'era ancora. Perciò il fatto che alcune aziende non vengano pagate dicendo questo mese non ho fatturato, cioè clienti, questo la dice lunga su qualcuno, no? Poi parlando anche con le banche dicono, no, i soldi sui conti correnti ci sono, non riusciamo a capire perché qualcuno debba a questo punto non pagare le rate, non pagare. Il ragionamento della liquidità serve però sotto il profilo del governo, che dia un forte segnale nel dire ok, va bene tutto, ma noi per un mese, due mesi, tre mesi dobbiamo lasciare liquidità all'interno delle aziende, sì, all'interno delle aziende degli autotrasporti, che comunque spendono, nel senso che il gasolio, autostrada, non si sono fermati, di conseguenza la percorribilità dei veicoli ha un costo, costo immediato. Certo. Ecco, serve che qualcuno dia risposte importanti, ma che dia, che le dia subito. Io la ringrazio, Patrizio Ricci, questa questione del pagare i fornitori è stata quella che è stata poi sottolineata ieri anche dal presidente di Confindustria Boccia, che l'ha detto agli associati, ha detto pagate dipendenti e fornitori, questo è un momento nel quale dipendenti e fornitori vanno pagati. Grazie a Patrizio Ricci, presidente di CNA Fita settore autotrasporto, per essere stato con noi. Il tema della riapertura, riapertura, riaprire quando, come, è una riflessione che si è aperta, va detto partendo dalle parole di Matteo Renzi, è stato per così dire il primo ad aprire la breccia, riaprire il possibile in sicurezza, dice. Io dico, intanto se ci sono delle zone rosse, stile come è stata le valli di Bergamo o di Brescia, è evidente che lì sarà molto più complicato fino a che non si fanno degli screening di massa. Però quello che è chiaro è che se ci sono delle realtà in cui l'imprenditore ha le mascherine per tutti, ha i guanti per tutti, ha il social distancing, cioè stiamo a distanza, allora così come lei in questo momento sta facendo un lavoro, così come la cassiera dell'Esselunga in questo momento sta facendo un lavoro, così come il poliziotto di quartiere sta facendo un lavoro, bene, anche chi può rimettere in moto le imprese deve partire, perché, dato di Confindustria, ogni settimana che stiamo fermi noi avremo qualcosa come 10 miliardi di euro di danni. Insomma, la riflessione su questo è tra l'altro, per esempio, sulla filiera dell'acciaio che è chiusa qua e aperta in altri paesi. Dunque, il Veneto, ed è tra l'altro l'apertura del Gazzettino di oggi, no, del quotidiano del Nord-Est, il Veneto sta pensando a una sorta di patente di immunità. Come funziona? Si fa il test sierologico, quello che serve a vedere se ci sono gli anticorpi a Covid-19, quindi non definitivo, non è come un tampone, però ti dà una sorta di conferma indiretta, del fatto che ce l'hai avuto e che hai sviluppato gli anticorpi, e poi si può girare, dice Zaia. Però è pur vero che adesso la nostra strategia si divide in tre: tamponi, test anticorpali, quindi quelli con la goccia di sangue, si può integrare come strategia. La terza strategia, che è quella sulla quale stiamo investendo tanto, è quella sierologica, cioè il prelievo del sangue e andare a verificare se si è formata ovviamente la risposta anticorpale e se c'è l'immunizzazione, quindi sappiamo le immunoglobuline. Questi sono i tre filoni sui quali stiamo investendo. Vogliamo alla fine dare la patente di individuo immune a chi ovviamente ha sviluppato l'immunità. E poi c'è tutta la questione jogging, non jogging, bambini, uscire con i bambini, non uscire con i bambini, insomma tutto un po' delirante per come è uscito ieri, e ha generato uno scontro con alcune regioni. Intanto il traffico. "24 Mattino". Ci arriviamo alla questione jogging, non jogging, bambini, i bambini possono uscire, non possono uscire. La questione della riapertura, nelle parole del vice ministro della salute Sileri, sentiamo. Auspicabilmente, anche con ottimismo, anche guardando i numeri, e quindi parlo più adesso più da politico che da medico, secondo me dopo Pasqua possiamo incominciare a pensare a questa cosa, quindi, però è chiaro, dobbiamo attendere i dati di questa settimana e la prossima settimana, quindi con l'auspicio che vi sia un calo significativo e che quindi inizi una curva che precipiti verso il basso, Segnalo ovviamente che tutta questa discussione, che pure ha un senso, molto senso dal punto di vista economico, è una discussione che messa così potrebbe portare molte persone ad allentare la guardia. Facciamo attenzione perché non ne siamo ancora usciti, Con tutte le misure di sicurezza si può ragionare su delle riaperture scaglionate, a mio personalissimo giudizio, poi per carità ci saranno degli esperti che dovranno decidere, però insomma, occhio a non abbassare la guardia. La questione dei bambini, che tra l'altro ha fatto imbestialire una serie di presidenti di regione, a partire da ovviamente Vincenzo De Luca, considero gravissimo il messaggio proveniente dal Ministero dell'Interno relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa, e poi anche Gallera, l'assessore alla sanità lombardo, quindi sia da sinistra che da destra arriva critiche su questo fronte. La ministra Lamorgese. Proprio oggi noi abbiamo fatto una circolare dove abbiamo detto che il genitore può uscire con il figlio sotto casa per questi motivi, per esigenze, quando parliamo di attività motoria è anche quella, quindi per consentire anche ai bimbi di poter prendere un po' d'aria. Si può andare a trovare i nonni? Non possiamo chiedere più di tanto. Ministro, si può andare? I nonni per caso di necessità, laddove si tratta di portare per esempio il qualche aiuto anche alimentare, in quel caso lo facciamo rientrare ovviamente nel caso di necessità. Sì, anche se devo dire la verità. Tutto sommato, se non vanno a trovare i nonni, i bambini, è meglio, con tutto il bene, eh? Ci si vuole tanto bene, però se si può evitare, meglio. I contatti, soprattutto con i più anziani. Continuiamo a ripeterlo. Allora, noi ogni mattina vi forniamo, lo sapete, i numeri dati dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Protezione Civile. Sono i numeri sui quali poi si basano i decisori politici per capire esattamente che cosa fare, quando riaprire, quando ripartire, perché queste decisioni devono basarsi su, appunto, dei dati. Il problema è: quanto sono affidabili questi dati? Mettiamola così, noi ve li forniamo perché sono i dati ufficiali, ripeto, perché sono i dati sui quali poi la politica decide che cosa fare. Però il tema, c'è un tema su quanto sono affidabili questi dati. Quanto sono omogenei da un giorno all'altro anche sulla base dei tamponi, e quanto è omogeneo il numero dei morti che, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, alcuni stimano in molto più alto, perché i tamponi non è che vengono fatti a tutti. Se ne è occupato nei giorni scorsi l'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane dell'Università Cattolica, ed è in linea con noi Alessandro Solipaca, che ne è il direttore scientifico. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, voi stimate quanti morti in più rispetto a quelli che vengono indicati? Sì. Sì, noi abbiamo fatto alcune stime, diciamo, sulla base della letteratura scientifica che recentemente ha affrontato questo tema, in particolare la sottostima dei contagiati e quindi la sovrastima della letalità del Covid-19. E quanti contagiati e quanti morti ipotizzate? Allora, i contagiati dovrebbero essere quasi 10 volte quelli che vengono effettivamente rilevati, mentre la letalità è decisamente più bassa, perché adesso siamo oltre il 10%, mentre le stime ci portano a dire che sono 1,14 circa ogni 100 contagiati. Questo non significa che i dati che vengono pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero e dalla Protezione Civile siano non siano corretti. In realtà questi sono dati ufficiali che si basano sui casi effettivamente osservati, quindi sui tamponi effettivamente fatti alle persone. Sì, sì, no, ma infatti non è che guardi, Solipaca, non è che diciamo che non sono corretti, diciamo semplicemente che sono dei dati che vanno presi, insomma, con tutte le cautele, naturalmente, perché poi da regione a regione anche la strategia dei tamponi cambia, no? Quindi su alcune regioni abbiamo una rilevazione più precisa, su altre un pochino meno. Esatto, sì, effettivamente le cose stanno così. Quindi dati affidabili, ma diciamo incompleti, perché purtroppo non osservano tutte le persone effettivamente contagiate. Quindi la letalità che è stata osservata è sicuramente sovrastimata. Stima effettiva, fortuna, delle vittime, diciamo. Stima effettiva delle vittime, secondo lei, secondo voi, secondo le vostre valutazioni? Beh, al 29 marzo, quando abbiamo fatto la simulazione, ce ne saremmo aspettati 2.800 in più. 2.800 in più, che sono, immagino, persone che fanno la degenza in casa e poi non ce la fanno, i morti all'interno anche delle case di riposo, che è un tema un po' sottostimato, che adesso piano piano sta emergendo sui giornali, però insomma chiaramente è gente alla quale, appunto, il tampone poi non viene fatto. Sì, verosimilmente sì, perché queste persone, a queste persone non viene fatto il tampone, e quando c'è una morte in casa non è detto che il certificato di morte sia dettagliato così come quello che viene effettuato in ospedale e su cui si basano la maggior parte dei dati che osserviamo ogni giorno dalle istituzioni citate, insomma Ministero e Istituto di Sanità. Allora, io la ringrazio intanto, grazie a Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane dell'Università Cattolica, che ci ha aiutato anche un po' a fare un punto. Come capite, cioè, da una parte è un filino più preoccupante questo dato, dall'altra parte è più tranquillizzante, nel senso che la letalità, no? Si abbassa. Buone notizie da ieri, l'inaugurazione dell'ospedale in fiera a Milano con una piccola coda polemica anche qua. Intanto ci sentiamo il presidente della regione Fontana. Un momento che simbolicamente è il primo segnale di una ripresa alla quale noi dobbiamo guardare con speranza. Io sono convinto che questo sarà il simbolo della battaglia vinta sul coronavirus e sarà il simbolo della ripresa della nostra regione. Con una condizione: non abbiamo ancora vinto niente, per cui mi raccomando, non lasciamo troppo entusiasmo, non diffondiamo troppo entusiasmo, la gente deve ancora rimanere a casa, deve rispettare le regole, solo così potremo vincere definitivamente la nostra battaglia. La coda polemica che vi dicevo, il fatto che se andate a vedere le immagini della presentazione ieri di questo ospedale in fiera, che è sicuramente un segnale bellissimo, A Milano si aggiungono dunque molti altri posti letto, di cui una cinquantina in terapia intensiva, un ospedale realizzato in tempi record, un paio di settimane, praticamente tutto con donazioni di privati. Quindi anche questo è un bellissimo segnale. La piccola coda polemica: ieri hanno fatto una presentazione nella quale erano tutti a distanza sicuramente di meno di un metro, cioè c'era una specie di assembramento, qualcuno ha scherzato dicendo sembrava l'inaugurazione del Salone del Mobile, diciamo forse da questo punto di vista si poteva dare qualche segnale diverso, però nel complesso è una buona notizia e bisogna dirlo. L'ultimo fronte ovviamente ancora quello che ha a che fare con gli aspetti economici, poi arriveremo a quelli di dettaglio, quelli che riguardano per così dire i provvedimenti del governo, la nostra vita di tutti i giorni, le partite IVA, gli autonomi che in queste ore non sanno veramente che fare. Il sito dell'INPS ci segnalava prima un ascoltatore, un commercialista, è già intasato. C'è tutta la questione che ha a che fare con l'Europa, Come agisce l'Europa, da dove prendere i fondi, come aiutare i paesi più in difficoltà. L'Italia propone i Corona Bond, Germania e Olanda nicchiano e dicono no, guardate, si possono utilizzare altri strumenti come il meccanismo europeo di stabilità, magari cambiando le condizionalità, cioè non mettendo delle condizioni come condizione le riforme strutturali e quindi riforme in stile greco. Il presidente del Consiglio Conte rilascia un'intervista a una TV tedesca e dice, insomma, appunto, noi spingiamo per questo, è quasi un rivolgersi direttamente ad Angela Merkel. Poi vorrei anche ricordare che questo meccanismo a cui lei allude, dell'Eurobond, non significa che di fronte alla ricostruzione che l'Italia affronterà, i cittadini tedeschi pagheranno un euro dei debiti italiani. Significa semplicemente creare una reazione comune in modo da realizzare condizioni di mercato più vantaggiose anche per finanziare questi sforzi di ricostruzione in modo che tutti se ne giovino. Troppo presto per parlare di riapertura come sentiamo discutere in queste ore. Le vostre voci è al 349-238-6666 con gli WhatsApp audio. Caro Peter Bescapè, chiudiamo. Chiudiamo con il nostro inno, il nostro Bob Marley che cerca di rassicurarci da una distanza di un bel po' di anni, però cerca di rassicurarci. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna.